The time for come has changed. Facile, rotondo, chiarissimo e di buon auspicio. Eccolo il primo mantra della lunga corsa elettorale americana. Change, cambiamento letteralmente, ma il suono è già diverso. I love change. Top to bottom change. We are happy warriors for change. Change is good, right? Change is hard. I love change. Barack Obama l'ha sposato dalla prima ora con il suo Change We Can Believe In, che campeggia ovunque in forma elettronica o cartacea, accanto al suo sorriso rassicurante. Ma gli altri, dopo aver capito l'aria che tira, ci sono balzati sopra e, visto che l'ovvio non gode di nessun copyright, stanno facendo del loro meglio per portarglielo via. This morning I said, the time for come has changed. The time has changed for come. In una corsa di 10 mesi è inevitabile che strada facendo il mantra cambi, anzi change. Fin d'ora si può però dire che chiunque sia il prossimo inquilino della Casa Bianca l'avrà scandito qualche centinaia di migliaia di volte. John Edwards l'ha usata 4 volte in una singola risposta registrata di 8 secondi, mentre John McCain ha usato la parola change ben 14 volte in una sola risposta data ad una giornalista. And the change, and the change, and the change, and the change, and the change, and the change. That juice hit on men's day, try to change their worlds, are immune. Insomma, l'unico ad usarla più rapidamente dei candidati alla Casa Bianca è stato David Bowie. Ma non è detto che, andando avanti di questo passo, qualcuno non lo possa battere. Gigi Donelli, GR24, Il Sole 24 Ore.